Spinelli, il cassiere di Berlusconi, svela un altro retroscena. Galliani, per ricomprare Ibrahimovic, gli mandò a casa un altro energumeno con le scarpette rosso-nere, Gattuso. E il portava in casa di lei, e il parlava per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore.